L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata in cui ci occupiamo di temi, diciamo così, a breve scadenza, ovvero di appuntamenti in corso o molto vicini nel tempo, quindi prendete nota. Cominceremo dal Forum della Pubblica Amministrazione a Roma, alla Nuvola di Fuxas, dal 23 al 25 di maggio. Quest'anno ci interessa questo appuntamento perché affronterà tutti i temi legati alla PA sostenibile, la pubblica amministrazione sostenibile, ovvero il ruolo che una pubblica amministrazione veramente efficiente potrà e dovrà svolgere per permettere all'Italia di raggiungere entro il 2030 i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile posti dalle Nazioni Unite. Noi abbiamo scelto una delle ricerche che verranno presentate al Forum PA di quest'anno, riguarda i consumi della pubblica amministrazione. La condotta Valentina Piersanti, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno Laura, buongiorno a tutti. Vari ambiti, no? Avete scandagliato l'energia, la mobilità, i consumi di carta. Cominciamo a dare un quadro un po' generale di come i dipendenti della pubblica amministrazione approcciano queste materie. Sì, io se posso Laura comincerei a dire perché abbiamo fatto questa ricerca. Molto volentieri. Che è un po' la chiave del Forum PA di quest'anno, nel senso che la pubblica amministrazione va letta come lo strumento che ci serve a raggiungere alcuni importanti obiettivi di sviluppo e di sostenibilità. Quindi perché abbiamo fatto questa ricerca che si chiama Pratiche di Sostenibilità al Lavoro? Non tanto per andare a vedere quanto e come consumano, meglio non solo, ma soprattutto perché se noi consideriamo i dipendenti della pubblica amministrazione sono oltre i 3 milioni e 200, quindi se noi li consideriamo come un'opportunità, cioè se loro imparano a consumare sostenibile siamo un pezzo avanti, questa è un po' la ragione. Certo, anche perché ciascuno di loro poi ha una famiglia, no? Quindi esatto. Si allarga e si moltiplica il messaggio. Consideriamo che la maggior parte dei dipendenti pubblici lavora nella scuola, oltre. Quindi a maggior ragione. A maggior ragione, nel senso che molti di loro hanno anche come mission quella educativa. Quindi questa, diciamo, serviva un po' a capire da che punto si parte. Esatto, da che punto si parte. Allora, siamo andati a vedere intanto come consumano e quanto consumano. Partiamo dalla mobilità, cioè gli abbiamo chiesto come andate a lavorare. Allora, consideriamo che in Italia la mobilità sostenibile non è proprio diffusissima, per cui l'Istat ci dice che gli italiani, il 60% degli italiani va a lavorare in macchina. Di questi il 45% ci va da solo in macchina e gli altri invece vanno come passeggeri. I dipendenti della pubblica amministrazione sono un po' più virtuosi di questo, della media degli italiani. E ci dicono che meno del 40% di loro va in macchina e il 5,5% sceglie di andarci con dei colleghi, quindi si organizza. Allora che cosa abbiamo fatto? Ci siamo chiesti che cosa succederebbe semplicemente senza grosse manovre e nuove normative o chissà cosa, cioè che succederebbe se ciascuno di loro si mettesse d'accordo con un collega per andare a lavorare? Beh, viene fuori che le auto, intanto che ora quelle dei dipendenti pubblici come stimolazione sono 1.300.000 ogni mattina in strada, diventerebbero 750.000, cioè 376 tonnellate di CO2 in meno, che non è una cifra irrilevante, e soprattutto, o non so se soprattutto, comunque 230 milioni di euro in meno di carburante. Che quindi si riflettono sia sulla bilancia nazionale che su quella delle famiglie poi. Esatto, cioè sia in termini di consumi individuali, di consumi e di spese individuali che di consumi paese, cioè di quanto carichiamo sull'ambiente con le nostre scelte. Quindi è chiaro che questo è un ragionamento che vale per tutti, no? Noi l'abbiamo fatto sui dipendenti della pubblica amministrazione perché la pubblica amministrazione ha per norma, per legge, c'è un piano nazionale in cui è molto chiaro e c'è degli accordi europei su questo, per cui la pubblica amministrazione ha una funzione di sensibilizzazione anche rispetto ai propri dipendenti, no? Quindi potenzialmente un grosso un grosso apporto possiamo dare, insomma. Anche se al momento in realtà spesso sono più le aziende private che stanno organizzando o comunque promuovendo questo tipo di car sharing tra i dipendenti, no? Per ora questo anche tipo molte amministrazioni pubbliche lo stanno facendo. Lo sta facendo la provincia di Trento, la provincia di Bologna, il comune di Bologna, anche molti piccoli comuni, addirittura in alcuni comuni le missioni vengono ci sono dei regolamenti interni in cui le missioni vengono autorizzate o con il car sharing o con per ragioni diverse, ma in accordo con altri colleghi. Quindi no, in realtà la pubblica amministrazione su questo si sta muovendo, ma lo dice meno, diciamo, ecco, forse. Allora mettiamola qui. Meno. Chiudiamo per un attimo il capitolo mobilità, poi se abbiamo tempo ci ritorniamo volentieri e andiamo a vedere gli altri. Diciamo prima l'energia. Energia. Energia, perché sull'energia fa effetto il numero. Allora, sull'energia che cosa abbiamo chiesto? Abbiamo selezionato, proprio perché molte amministrazioni pubbliche fanno dei regolamenti interni sul risparmio energetico, dei regolamenti, o meglio, dei manuali interni sul risparmio energetico, in cui sostanzialmente dicono quanto si ridurrebbero i consumi se il dipendente X facesse una cosa piuttosto che un'altra, che vuol dire spegnere il computer quando è in pausa, spegnere la luce, non lasciare le luci accese di notte, cioè niente di trascendente, cioè comportamenti di rispetto rispetto al fatto che comunque stiamo consumando oltretutto con denari pubblici, ma che ciascun gesto che facciamo ha un impatto sull'ambiente enorme. Capiamo che la pubblica amministrazione consuma all'anno 4.661 gigawattora, che vuol dire, cioè consuma quanto 1,5 milioni di famiglie, che è tanto, cioè che è praticamente l'1,5% dei consumi nazionali. Ora, con questi comportamenti che dicevamo prima, cioè di sostenibilità, ma insomma di pratiche di buon uso delle risorse, si riuscirebbe a ridurre i consumi, stimano appunto le varie amministrazioni, dal Ministero dell'Ambiente alle singole amministrazioni locali, che si ridurrebbero tra il 5 e il 15%. Quanto spendono le amministrazioni locali per le bollette dell'energia, del gas e dell'acqua? L'11% di quelle che sono le spese correnti, si chiamano, cioè le spese per acquisti beni e servizi. Solo i comuni hanno speso nel 2015 1.875 milioni di euro di bollette elettriche. Ora, facendo così come abbiamo fatto per la mobilità, facendo due conti, il risparmio per i comuni, se si facessero le varie cose che dicevamo prima, cioè mettere il computer, inibire la funzione stand-by, spegnere la luce, utilizzare il condizionatore non con le finestre aperte, eccetera, eccetera, quello che probabilmente in casa nostra facciamo normalmente, si spera, il risparmio complessivo per il paese sarebbe di 103 milioni di euro. Beh, meglio quello che certi altri tipi di tagli, no? Che poi vengono praticati per ridurre le spese. Esatto, e soprattutto perché l'Enea, per esempio, stima, perché è ovvio che la maggior parte della dispersione energetica per le pubbliche amministrazioni è data al fatto che hanno attrezzature estremamente energivore, hanno anche degli edifici che non sono Certo. Che hanno dei consumi performanti, diciamo. Esatto. E l'Enea che ci dice che per rimettere in sesto, cioè per abbassare il consumo degli edifici della pubblica amministrazione, stima 111 milioni. Ora, così noi, che per carità, cioè siamo da tanto tempo osservatori della pubblica amministrazione, da meno dell'energia, però, cioè, se dal nostro calcolo, che appunto è che con queste azioni replicate per tutte le amministrazioni si ridurrebbe 103 milioni, se questi li investiamo per direttamente, così, pum, per la riqualificazione energetica degli edifici, lì a quel punto il risparmio è del 40%, e quindi siamo su cifre notevoli. Allora, ovviamente senza lasciare nessuno al buio e senza metterli al freddo, no, perché comunque no, solo spegnendo la luce prima di andare a casa. Ecco, capitolo consumi di carta, che nella pubblica amministrazione è comprensibilmente alto, ma che si può ridurre come con dei sistemi appunto come il badge, prima di stampare, giusto per capire chi stampa per lavoro e chi invece sta stampando libri, però poi in generale c'è un'attenzione dei lavoratori rispetto ai consumi della carta, o non è percepito come un bene su cui risparmiare? No, c'è un'attenzione e tra l'altro su questo ci sono stati tanti interventi normativi da quelli che hanno affrontato la questione. Anche qui vi do due numeri, nel senso che si stima che ogni dipendente pubblico consumi più o meno 80 kg di carta all'anno e con una spesa molto molto elevata per dirvi anche qui vi do il numero sui comuni, i comuni hanno speso più di 88 milioni di euro di carta. Ora, questa cifra è scesa tantissimo, cioè nel 2010 gli stessi comuni avevano speso oltre il miliardo, quindi è chiaro che tutti gli interventi fatti in questi anni stanno dando i loro effetti, però ci sono due temi, cioè quelli che appunto la riduzione della spesa per carta, appunto, quindi c'è un blocco su quanto ciascun ente può spendere sulla carta e sulla cancelleria. E poi c'è tutta l'altra parte che è quella che noi affrontiamo a Forumpia, che è tutta la tematica della digitalizzazione, quindi l'ultima è con il nuovo CAD, il codice d'amministrazione digitale, che è proprio sostanzialmente da lì ormai non ci sono più scuse, nel senso che i documenti non vanno tutti archiviati, le mail non vanno stampate, eccetera, eccetera. Quindi su questo si è fatto tantissimo in termini di leggi e provvedimenti, ma di nuovo se non si sensibilizza sul tema non riusciamo a avere gli obiettivi che dovremmo avere. Quindi anche qui un'altra delle nostre simulazioni, se ciascun dipendente pubblico oggi evitasse di usare 500 fogli l'anno, cioè una risma nel suo lavoro quotidiano, alla fine dell'anno noi avremo un complessivo risparmio di 8.142 tonnellate di carta, che vuol dire che non abbattiamo 122.000 alberi, che non consumiamo 300 miliardi e mezzo di litri d'acqua, 62 milioni di kilowatt di energia e CO2 ci interessa sempre, cioè quasi 20.000 tonnellate di CO2. E anche qualche soldino. Molti soldini. Allora, io voglio ringraziare Valentina Piersanti che, come dicevamo, è la curatrice di questa ricerca fatta per Forum PA che dal 23 al 25 maggio sarà a Roma alla Nuvola Fuxas. Bene, ora facciamo una piccola pausa e poi torniamo insieme. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini, seconda parte dell'altro pianeta, secondo appuntamento che vi proponiamo. È in corso infatti a Genova Slow Fish 2017, evento internazionale dedicato al pesce e alle risorse del mare. Come ogni due anni Slow Fish è organizzato dall'Associazione Slow Food Italia e dalla Regione Liguria in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. È al Porto Antico di Genova fino a domani, quindi c'è poco tempo. Si mangia, ma non solo. Ne abbiamo parlato con Daniele Buttignol, segretario generale di Slow Food Italia. La colonna portante sta nel titolo. Il titolo che la rete siamo noi. Quest'anno, più che in altre occasioni, vogliamo sottolineare come l'impegno di ognuno di noi, l'impegno personale, stia alla base di ogni ragionamento che si fa intorno all'agricoltura o in questo caso al mare e quindi alle risorse che il mare ci può dare. Il mare può continuare a vivere solo se c'è un impegno di tutti noi nel rispettarlo e nel cercare di dare una mano a questa vita. Attraverso tante delle iniziative che poi a Slow Fish dal 18 al 21 maggio metteremo in campo. Tutte quelle iniziative che servono a far drizzare le antenne, per cercare di capire quello di cui stiamo parlando. Le tematiche che vanno dall'inquinamento alla gestione delle risorse, dal tema cibo e salute, quest'anno sarà centrale la salute del mare, la salute dell'ecosistema, dei pesci e delle persone, anche alla parte poi più ludica che a noi piace sempre tenere vicino le parti più scientifiche di approfondimento e quindi ci si potrà sbizzarrire con degustazioni, con le cucine di strada, con le 300 etichette delle enoteche, con le birre artigianali. La parte scientifica a cui mi diceva lei l'avete diretta più ai giovani, più a che tipo di pubblico chi è che viene a Slow Fish di solito? Ma a Slow Fish è un pubblico ampio, noi avremo delle attività dedicate principalmente ad esempio alle scolaresche, quindi proprio con dei dei viaggi che chiamiamo Che pesci prendere, per raccontare ai bambini ed approfondire con i bambini e con i ragazzi un po' di curiosità, quelle che possono essere cose anche un po' giocose. Ma poi avremo tutta una serie di conferenze invece dedicate anche a chi voglia approfondire in maniera un pochino più scientifica o in maniera ancora più consapevole, quindi qui parliamo di un pubblico adulto che è, diciamo, molto attento e molto presente a Slow Fish. Questa è una caratteristica, un pubblico che vuole approfondire. Avremo anche delle attività dedicate ai giovani, ma diciamo che non c'è una divisione netta da questo punto di vista sugli approfondimenti. Dunque, sempre caratteristico di Slow Food, e a me piace sottolinearlo e ricordarlo, è anche la presenza, diciamo così, di testimonial, ma non VIP, cioè di persone che lavorano, no? Vedo specificamente pescatori per la maggior parte, persone che lavorano con il mare, che raccontano le loro storie e il loro impegno quotidiano. Vengono un po' da tutto il mondo, Olanda, Danimarca, Tunisia. È un altro aspetto tipico delle vostre manifestazioni. Sì, questa è una nostra caratteristica, perché pensiamo che nel momento in cui si debba parlare di responsabilità comune, debbano essere proprio i soggetti che vivono quotidianamente il mare, in questo caso, visto che parliamo di mare o di fiumi, ma che vivono quotidianamente questi aspetti, a raccontare le loro storie, perché poi la vita è fatta anche di narrazione, la vita è fatta di incontri. Allora il pubblico di Slow Fish avrà l'opportunità di incontrare queste persone, di cercare di capire quali sono magari le problematiche con cui queste persone si trovano a convivere, o quali sono le soluzioni che hanno trovato nell'affrontare i problemi che quotidianamente si trovano ad affrontare. E la caratteristica che viene fuori è che, dove si va in giro per il mondo, i problemi poi sono molto simili, perché parliamo di inquinamento. Noi metteremo a confronto, ad esempio, il Po con la Loira, in due appuntamenti, uno in seguito all'altro, dove nel primo affrontiamo tutti i problemi che ci sono intorno al nostro grande fiume, e nell'appuntamento successivo approfondiamo come invece nella Loira, che 20 anni fa era il disastro dal punto di vista dei fiumi, ha saputo, con una crescita e una consapevolezza maggiore, risolvere almeno in parte questi problemi. Quindi questi confronti e questi incontri aiutano a caratterizzare anche i nostri eventi. Grazie, buon lavoro e a risentirci. Grazie a voi, a presto. Ed era Daniele Buttignolo, segretario generale di Slow Food Italia. La terza e ultima intervista di questa puntata ci porta un po' più avanti nel tempo, ma bisogna iscriversi subito, per questo ne parliamo. Siamo infatti prossimi alla quinta edizione di Vento Bici Tour, da Venezia a Torino lungo la ciclovia che corre sul Po, sull'argine del Po. L'argine c'è, ovviamente, ma va adeguato alle necessità del cicloturismo, ma ci sono buone speranze di riuscita, poiché dallo scorso anno Vento è entrata nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche. In questi mesi, quindi, il Politecnico di Milano, che è l'ideatore, il promotore del progetto Vento, con le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Infrastrutture Lombarde, dicevo, il Politecnico di Milano sta lavorando alla progettazione della pista. E quest'anno c'è una novità rispetto al passato, ovvero quella di poter partecipare tutti al tour in due weekend. Allora ne abbiamo parlato con Paolo Pileri, docente del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani al Politecnico di Milano, che ben conosciamo, un gradito ritorno in trasmissione. Paolo, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, la grande novità quest'anno, ha enorme richiesta di tanti che ci scrivono, è che quest'anno Vento Bici Tour è aperto a tutti. Ci sono le due settimane, dal 2 al 4 di giugno e dal 9 all'11 di giugno, quindi da Venezia fino a Boretto, da Pavia fino a Torino, che saranno aperte a tutti, quindi ci si può iscrivere come grandi eventi ciclistici, diciamoli così, e si va insieme su quello che sarà un giorno la grande pista ciclopedonale, la grande dorsale cicloturistica da Venezia a Torino. Dunque, dal 2 al 4 giugno, quindi vuol dire che c'è anche il pernottamento, si rivolgono a voi per tutto o devono cominciare a orientarsi da soli? Allora, noi abbiamo lavorato insieme agli amici della Bike Night, che organizzano le Bike Night un po' in giro per l'Italia, che ci stanno aiutando, hanno sul sito di Vento www.progetto.vento.polimi.it, ma basta mettere Vento su Google, ormai stiamo superando l'evento atmosferico, Sono già una lista di bed and breakfast, agriturismi, piccoli hotel, grandi hotel che sono già stati intercettati e con cui c'è un accordo. Diversamente uno può fare come crede, oppure può anche venire in una sola giornata e poi tornare indietro, ci sono i punti stazione per tornare. Ci si può iscrivere o una giornata o a più giornate, come uno crede e ha voglia e ha possibilità e se la sente. A proposito di sentirsela, che tipo di percorso è? Che lunghezza ha? È difficile, facile? Insomma, per dare un po' un'idea, no? Assolutamente. Allora, come sempre abbiamo detto, il cicloturismo è per tutti. Quindi è tutto facilissimo. Chiaramente dove non c'è l'asfalto o la pavimentazione giusta ci arrangeremo. Però tutto sarà, come dire, provvisoriamente messo in sicurezza in modo tale che sia tutto facile e sicuro. E arriviamo a Vento, ciclabile Vento, insomma, a che punto siamo dei lavori? L'anno scorso abbiamo, no, avuto un momento di passaggio importante, però sono passati 12 mesi, quindi che novità ci sono lì? Allora, siamo pronti per lanciare, allora, è un'opera pubblica, come abbiamo sempre detto, quindi come tutte le opere pubbliche risente della liturgia un po' lunga, delle opere pubbliche. Quindi in questo momento, come dire, il finanziamento del governo italiano sulla ciclabile Vento sta per essere erogato, cioè proprio notizia della settimana scorsa, e di conseguenza partirà, ci rimetteremo al lavoro dopo Vento Bici Tour e partirà un bando di progettazione assolutamente prima dell'estate, in modo tale che poi bisognerà intercettare l'impresa che farà la progettazione, e da lì in poi si va con un ritmo serratissimo fino alla realizzazione. Dunque, per mettere un po' alle strette, diciamo, no? Queste liturgie così lente, voi avete anche organizzato un altro incontro con il ministro Delrio, ancora a Cremona. Quindi si torna sul luogo del delitto, dove 2 anni fa c'era anch'io, dove lui promise che si sarebbe impegnato per la realizzazione di questa ciclovia. Effettivamente ci sono stati dei movimenti, quest'anno lo rimettete sotto i riflettori. E anche sulla sella lo mettiamo, stiamo proprio concordando in questo momento con lo staff del ministro di fare una pedalata da Stagno Lombardo, dove stiamo organizzando, come dire, una doppia partenza, la partenza di un gruppo di ciclisti con il ministro e la partenza anche di una nave, di un battello che partirà da Stagno Lombardo e arriverà a Cremona. Quindi partiremo in bicicletta, andremo in bicicletta e poi a Cremona, quando arriveremo a Cremona, parleremo ancora un attimo di Vento. Dovrebbero esserci anche i presidenti delle regioni. Questo cerchiamo di raccontarvelo quando succede. Nel frattempo ringraziamo Paolo Pileri per essere stato ancora una volta con noi. In bocca al lupo, e ricordiamo il vostro sito come riferimento, no, per iscriversi. Assolutamente. Come dire, il costo per iscriversi, stiamo parlando di 10-12 euro, adesso non ricordo con precisione, con sconti per studenti, cose incredibili, quindi si tratta veramente di poco. Stiamo provvedendo a cercare il più possibile di fornire ristori, coinvolgendo, come dire, le aziende agricole. Slow Food è di nuovo partner dell'iniziativa, quindi si sta dando tantissimo da fare. Venite. Grazie. Ed è tutto per questa puntata dell'Altro Pianeta. Da Laura Bettini, appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora, e buon proseguimento d'ascolto.